crescente, figlio del niente, ha un padre assente, una madre lontana per lavoro, che super certo vede una volta al mese, festività comprese, si sente troppo solo. A 16 anni, 17, tra pochi mesi, uguale agli altri, con i suoi jeans, starsi ai piedi. Non crede i prof, li trova sciocchi, perché sanno leggere tutto fuorché negli occhi. Si paragona coi naufraghi, che s'affidano ad una bottiglia, la loro buona stella, perché anche lui s'affida alla bottiglia, ma una di quelle che lo stendono a terra. Gli manca affetto, è chiuso in se stesso, e avrebbe voluto un po' di felicità. Mentre beve scrive qualche verso, chiede aiuto, uno di questi presso poco fa. Con il suo futuro, non so io che lo mette nel cassetto, ma in un pacchetto di sigarette, perché sa che lo manderà in fumo. È insicuro nei suoi panni, per questo ama interpretare altri personaggi, mettendo Stanislavski nella testa di altri. Di sicuro non incontra sui fantasmi, per caso allora un tossico vorrebbe dirlo alla madre, al padre, se sarebbe comodo. Ma non vedrebbero ciò che ha dentro, nonostante l'una lavori alle lastre e l'altro abbia fatto il radiologo. Passa ore a scrivere un copione sul malessere causato dalla mancanza d'amore. Chissà, magari sarà un film, le battute iniziali fanno più o meno così, sì.